Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ho sostenuto che non è giusto affermare che quelli che lasciano il nostro paese sono i migliori e che di conseguenza quelli che restano hanno meno competenze e qualità degli altri. Ho aggiunto a questa opinione, che considero legittima e non offensiva, un inciso sbagliato e tale da ingenerare la convinzione di una mia insensibilità nei confronti di quei ragazzi che cercano una prospettiva lontano dall'Italia. Constatato il mio errore, ho considerato mio dovere scusarmi subito per quell'espressione, anche perché molto lontana dal mio pensiero, dalla mia storia personale e dal mio modo di agire. Così si è difeso, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro del lavoro Poletti, vi ricordate per quella frase piuttosto infelice che aveva detto lo scorso 19 dicembre, no? Dicendo che i giovani che vanno all'estero, alcuni è meglio non averli tra i piedi. Oggi in questa informativa in Parlamento si è spiegato così, perché nei suoi confronti è stata presentata anche una mozione di sfiducia da parte delle opposizioni che sarà votata nei prossimi giorni. Per il momento, insomma, la vicenda, questa prima tappa si chiude qui, ma ci sono molte altre notizie importanti oggi, come sempre. Per tutti i giorni, e qui a Effetto Notte ve le racconto in una sintesi della giornata. Il Movimento 5 Stelle, vi ricordate, ne abbiamo parlato ieri, che aveva tentato questa svolta europeista con il gruppo dei liberaldemocratici europei dell'ALDE. Dopo il loro rifiuto, oggi Grillo ha fatto marcia indietro ed è tornato con Nigel Farage e il suo partito euroscettico, il suo gruppo euroscettico. Poi, grossa notizia di oggi è la scoperta da parte della polizia di questa grande centrale di spionaggio telematico che avrebbe spiato amministrazioni, istituzioni e anche politici e personaggi molto in vista, da ex presidente del Consiglio come Renzi fino a Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea. Ne parleremo e ci sarà anche un esperto che fa delle ipotesi davvero inquietanti e dice che è stato preso questo software per questo spionaggio ad altissimo livello, è stato acquistato come un'arma nucleare, quindi dietro c'è ben altro, insomma, che le due persone arrestate. Non perdete neanche un minuto di Effetto Notte fino alle 22 insieme per essere sempre aggiornati sulle notizie più importanti della giornata e poi con gli approfondimenti con i vari ospiti. Per i vostri interventi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per i messaggi WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Partiamo allora con la sintesi della giornata. Cyberspionaggio, fratello e sorella arrestati a Roma, avevano creato una centrale che spiava da anni politici e istituzioni, avrebbero legami con la massoneria e con Buzzi, imputato in mafia capitale. Terrorismo a Roma, un tunisino faceva proseliti tra i carcerati, sarebbe legato a una branca dell'ISIS. Vertice italo-francese, Hollande e Gentiloni rilanciano l'Unione Europea e dicono le priorità sono crescita e lavoro. Banche via libera della commissione d'inchiesta, anche il PD è favorevole. Movimento 5 Stelle, dopo il tentativo fallito di passare con l'ALDE, Grillo fa retromarcia e torna con l'UKIP di Farage, risolte tutte le divergenze. Stati Uniti, stanotte il discorso di commiato di Barack Obama. I malati curati a terra a Nola, la ministra Lorenzin difende i medici, sono eroi, dice, attacca sul malfunzionamento regionale. Minori, tredicenne considerato troppo effeminato, viene allontanato dalla madre. L'avvocato commenta, è un provvedimento discriminatorio, ma i giudici negano che vi sia stata discriminazione. Duplice omicidio nel Ferrarese, marito e moglie trovati uccisi in casa. A scoprire i cadaveri sarebbe stato il figlio sedicenne. Nei primi accertamenti sui corpi risultano segni di aggressione. E per il calcio la FIFA vara il nuovo mondiale, dal 2026 sarà 48 squadre. Partiamo quindi da questa centrale di spionaggio telematico, vi dicevo, scoperta dalla polizia, spiava politici, amministrazioni, istituzioni, tra le personalità più in vista, vittime degli attacchi informatici, anche alcuni ex presidenti del Consiglio e il governatore della Banca Centrale Europea. Per anni, almeno dal 2011, hanno spiato i computer di politici, banchieri, istituzioni, partiti, studi legali e professionali. Mario Draghi, Matteo Renzi, Mario Monti, l'ex comandante della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo e il Cardinal Ravasi sono solo alcuni dei nomi finiti sotto la sorveglianza di Giulio Occhionero, un ingegnere nucleare di 45 anni, e di sua sorella Francesca Maria, 49 anni, arrestati oggi dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma su una centrale di cyberspionaggio. I due, residenti a Londra ma domiciliati a Roma e conosciuti nel mondo dell'alta finanza capitolina, avevano messo su una vasta rete di computer creata infettando i dispositivi con un malware. Una tecnica che ha consentito ai due Occhionero di raccogliere e catalogare dati e informazioni sensibili su migliaia di persone. dossier gelosamente custoditi in impianti informatici statunitensi, ora sequestrati dalla polizia postale con il contributo dei colleghi dell'FBI. Gli Occhio Nero sono finiti nella rete degli investigatori proprio grazie a una mail infetta. L'ingegnere, secondo gli inquirenti, sarebbe legato ad ambienti massonici. Domani sono in agenda gli interrogatori di garanzia per i due arrestati davanti al GIP Maria Paola Tomaselli e alla presenza del PM Eugenio Albamonte, titolare dell'indagine. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Come vi dicevo, poi torneremo a parlarne, perché appunto dietro queste due persone arrestate potrebbe esserci una rete internazionale a ben più alto livello, poi ci faremo spiegare anche da questo esperto di sicurezza. Terrorismo: un tunisino di 34 anni, Saber Hamidi, avrebbe reclutato adepti all'interno delle numerose carceri in cui è stato rinchiuso negli ultimi anni dopo aver tentato di sparare alla polizia durante un controllo stradale. È accusato di far parte dell'organizzazione terroristica Ansar al-Sharia, un gruppo terroristico jihadista attivo in Tunisia dal 2011 e considerato affiliato all'ISIS. All'uomo è stata notificata oggi nel carcere di Rebibbia un'ordinanza di custodia cautelare al termine di un'indagine antiterrorismo della Digos di Roma. Poi ci faremo raccontare più nel dettaglio questa vicenda, anche perché ci riporta al problema del rischio di radicalizzazione di molti detenuti nelle carceri italiane. E anche di lotta al terrorismo hanno parlato Hollande e Gentiloni oggi a Parigi, in questo vertice italo-francese, temi europei a dominare l'incontro. Scrivere una nuova pagina della storia europea, il presidente francese uscente Hollande prova a rilanciare il claudicante progetto comunitario cogliendo l'occasione della prima tappa del tour europeo del premier italiano Gentiloni. L'orizzonte è il summit di Roma di fine marzo, quando i 27 leader reduci dalla futura Brexit celebreranno il 60° anniversario dei trattati. Per cominciare però bisogna cambiare le regole. Dopo l'uscita del vice cancelliere tedesco Gabriel contro le politiche di austerità, Roma e Parigi rilanciano un fronte comune, come sintetizza lo stesso premier. Non esiste un futuro all'altezza della sua tradizione per un'Europa che sia ossessionata dalle regole di bilancio e non concentrata sul lavoro, la crescita e lo sviluppo. Oltre a crescita e occupazione in primo piano nella bilaterale, anche la creazione di un'Europa della difesa e la lotta al terrorismo. Gentiloni pronostica la sconfitta militare dell'ISIS nel corso dell'anno e sul fronte immigrazione chiede che il peso dei flussi venga condiviso in Europa. Il premier, con l'Italia presidente del G7, spezza una lancia anche a favore della Russia nei giorni turbolenti dello scandalo hacker. Non siamo disponibili al rilancio di logiche da guerra fredda. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito del fronte europeo, per il Movimento 5 Stelle oggi è stato il giorno della pace con Farage. Indietro tutta, il Movimento 5 Stelle torna nel gruppo europeo insieme all'UKIP di Farage dopo il rifiuto dei liberali dell'ALDE, ma l'eurodeputato britannico chiede la testa di David Borrelli, co-presidente del gruppo e fedelissimo di Davide Casaleggio, fautore dell'accordo respinto con i liberali. Inoltre l'UKIP vorrebbe riprendere il controllo di alcune commissioni europarlamentari, togliendo il ruolo di coordinatori del gruppo ai grillini. L'adesione all'ALDE è stato solo un tentativo tecnico, ribadiscono dal movimento, così Laura Castelli. Si è provato a percorrere una strada, che comunque è una strada di un'autonomia con gli stessi temi, un referendum sull'euro, un'Europa che va modificata e cambiata. Intanto a Bruxelles gli eurodeputati 5 Stelle temono la perdita di peso nelle commissioni ambiente e immigrazione, dove le posizioni divergono di più da quelle degli euroscettici britannici, e cresce l'ira della base sul blog, troppa fretta nel chiedere il voto per un accordo con gli europeisti più convinti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Per quanto riguarda il lavoro, domani dovrebbe arrivare la decisione della consulta sul referendum che riguarda il Jobs Act, e intanto oggi il ministro Poletti è tornato a scusarsi, l'avete sentito all'inizio, per le parole contro i giovani italiani che lavorano all'estero. Constatato il mio errore, ho considerato mio dovere scusarmi subito per quell'espressione, anche perché molto lontana dal mio pensiero, dalla mia storia personale e dal mio modo di agire. Il ministro del lavoro Poletti torna a scusarsi così al Senato sulle sue discusse frasi sui giovani che vanno all'estero. È bene che i nostri ragazzi abbiano l'opportunità di andare in giro per l'Europa e per il mondo, chiarisce il ministro, ma debbono avere anche la possibilità di tornare nel nostro paese. La disoccupazione giovanile resta preoccupante, riconosce quindi Poletti, che conferma poi l'intenzione del governo di rivedere lo strumento dei voucher. Colgo l'occasione in questa comunicazione per ribadire che il governo considera necessaria una revisione di questo strumento al fine di riportarlo alla funzione per la quale era stato disegnato. E sui voucher parola domani alla Consulta, che si esprimerà sull'ammissibilità o meno del relativo referendum. Alla Corte Costituzionale anche la decisione su altri due quesiti, su articolo 18 e norme sulla responsabilità solidale sugli appalti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per quanto riguarda le banche, la Commissione Finanze del Senato inizierà il 31 gennaio l'esame del disegno di legge per istituire una commissione d'inchiesta sulle banche. Puntiamo a presentare un testo unico, ha spiegato il presidente Marino. Il senatore PD ha detto ancora che presenterà come relatore una proposta di sintesi rispetto ai 13 disegni di legge depositati in commissione, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che riguardano tutto il sistema bancario e non solo MPS, il Monte dei Paschi. Dall'estero, il presidente uscente degli Stati Uniti, Barack Obama, pronuncerà nella notte italiana a Chicago, città di adozione che ha lanciato la sua carriera politica, il suo discorso di addio, in cui chiederà agli americani di non perdere la speranza nel futuro, a prescindere da ciò che pensano del prossimo presidente Donald Trump. Ed è morta a Hong Kong all'età di 105 anni Claire Hollingworth, la giornalista britannica che nel 1939, era una giovane reporter del Daily Telegraph, realizzò lo scoop del secolo dando notizia dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale dopo aver visto un ammassamento di forze tedesche al confine polacco mentre era in viaggio fra Polonia e Germania. Lo riporta la BBC. Nata a Leicester in Inghilterra nel 1911, fu anche un'eroina prima dello scoppio del conflitto mondiale, quando aiutò migliaia di persone a ottenere un visto britannico per sfuggire al nazismo. Di nuovo in Italia, i malati curati a terra a Nola. La ministra della Salute Lorenzin interviene su questa vicenda del caso dell'ospedale di Nola e difende i dottori che sono intervenuti e hanno curato i malati anche a terra. Dice: i medici sono eroi che hanno fatto il loro lavoro, ma in campagna ci sono problemi amministrativi. Se ci sono responsabilità, sono a livello apicale. E poi, adesso da Padova, invece, una storia complicata di un tredicenne allontanato dalla famiglia. Allontanato dalla madre perché effeminato, recitano i titoli firmato il giudice del Tribunale dei Minori. La storia la racconta ad effetto giorno Francesco Miraglia, avvocato di una donna di Padova, e riguarda un ragazzino di 13 anni per il quale i magistrati hanno disposto l'affidamento in comunità. È incredibile che in questo momento storico si possa leggere in un provvedimento di un tribunale che un minore deve essere allontanato perché ha dei punti di riferimento solo femminili. Titoli a parte, le cose non stanno proprio così. Questi elementi sono sì citati nel provvedimento dei giudici, ma non sono i soli e anzi non sono i principali. La storia inizia con la separazione dei genitori, che è consensuale. Poi al padre viene impedito di vedere il ragazzino. La madre denuncia l'ex marito per abusi sessuali, ma l'uomo viene assolto. Nel frattempo, quello che all'epoca è ancora un bambino viene mandato in una comunità diurna. Mostra problemi di inserimento, di relazione, di attenzione, regredisce ed è aggressivo. Ma, stando ai giudici, nell'attuale ambiente familiare il lavoro terapeutico non ottiene risultati. Di qui la decisione: inserimento in comunità e temporanea, solo temporanea, sospensione dei rapporti con i genitori, in attesa di verificare tanto i suoi progressi quanto quelli della madre e del padre in termini di collaborazione. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca: duplice omicidio a Ponte Langorino nel Ferrarese. I cadaveri di un uomo di 59 anni e di una donna di 45, marito e moglie, sono stati trovati nella loro casa dal figlio di 16 anni. Sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Ferrara e di Comacchio. Dai primi accertamenti sui corpi risultano segni di aggressione e si indaga per duplice omicidio. I due coniugi avrebbero sulla testa un sacchetto di plastica. E ci sono buone notizie contro l'integralismo: dal Marocco, che fa la guerra al burka con il pretesto della sicurezza, le autorità di Rabat hanno vietato l'importazione, la produzione e la vendita del velo integrale. L'ordine, sotto forma di circolare, è partito dal Ministero dell'Interno ed è arrivato alla spicciolata sui banchi dei mercati rionali che vendono questi abiti opprimenti per le donne. E dalla Svizzera: le ragazze musulmane in Svizzera dovranno frequentare lezioni di nuoto miste, lo ha stabilito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in seguito a un ricorso delle autorità svizzere. Per il Tribunale il Paese ha diritto di dare la precedenza alle regole della scuola e all'integrazione dei ragazzi. E per chiudere, una notizia che riguarda il calcio, di cui poi parleremo in modo più approfondito nel corso di Effetto Notte. La FIFA, la Federazione Mondiale del Calcio, vara il nuovo mondiale: dal 2026 sarà a 40. 48 squadre, quindi decisamente più affollato. Intanto arriva anche questa notizia, un lutto nel mondo del cinema: è morto il truccatore premio Oscar Manlio Rocchetti, aveva vinto la statuetta nel 1990 per A spasso con Daisy. E poi vedo anche una dichiarazione di Di Maio: voterei per un'uscita dall'euro del Movimento 5 Stelle. Insomma, è tutto un divenire con le notizie. Non perdete quindi neanche un minuto di Effetto Notte. Ci sentiamo dopo le viabilità, i vostri messaggi, la pagina Facebook di Effetto Notte e poi al 349-238-6666. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, vi ho appena finito di raccontare la sintesi della giornata, adesso cominciamo ad approfondire, sempre con Effetto Notte, alcuni temi in particolare. Intanto vi aggiorno sulla partita di Coppa Italia, Napoli-La Spezia, per il momento in vantaggio il Napoli per 1-0. Tra pochissimo invece parleremo di questa rete, probabilmente internazionale, ad alto livello di spionaggio, che ha spiato fra le varie personalità anche Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, anche il Vaticano e anche ex presidente del Consiglio come Renzi. Cercheremo un po' di capire i dettagli e anche come è stato possibile, che cosa c'è probabilmente dietro questa rete, queste due persone arrestate. Ci siamo lasciati poco fa con questa notizia che riguarda una dichiarazione di Di Maio del Movimento 5 Stelle, che dice: io voterei per un'uscita dall'euro. Sapete che sono stati due giorni, questo di martedì sulla 7 lo dice, due giorni in cui un po' di giravolte. Ieri il Movimento 5 Stelle, che aveva votato su decisione di Grillo e poi con l'approvazione del 78% degli iscritti al blog e al movimento, aveva votato per l'adesione all'ALDE, che è il gruppo dei liberaldemocratici, il gruppo europeo più europeista del Parlamento europeo, e poi invece con lo stop a un certo punto ieri in giornata dell'ALDE, di nuovo oggi il Movimento 5 Stelle è ritornato dall'euroscettico, il gruppo euroscettico dell'UKIP di Nigel Farage. Le altre notizie ve le ricordo tra poco di nuovo, se non avete acceso puntualmente alle 21, e poi tra poco appunto parleremo di questa operazione anti-cyber spionaggio. Appunto, partiamo da questa notizia: in manette cyber spioni, entrate anche nella mail di Renzi, controllati Draghi e Monti, legami con la P4 e Bisignani. Il Movimento 5 Stelle torna con Farage, ma lui pone condizioni, dice: chi tradisce paga, l'ira della base del movimento. Via libera della Camera oggi alla commissione d'inchiesta sulle banche. Il 31 gennaio ci sarà l'esame del disegno di legge. Il PD dice: bisogna accertare le responsabilità. E poi Hollande e Gentiloni, oggi c'è stato un vertice Francia-Italia, rilanciano l'Unione Europea e dicono: le priorità sono crescita e lavoro. L'Unione Europea spinge intanto sui rimpatri dei migranti, al via un team, una squadra speciale di Frontex, di guardie di frontiera. E poi il ministro del Lavoro Poletti al Senato oggi ha ribadito le sue scuse per le parole sui giovani all'estero. Intanto è attesa la decisione della Consulta sul referendum per il Jobs Act. Jobs Act, il minorenne troppo effeminato, tra virgolette, questa è una notizia che riguarda questo tredicenne che è stato allontanato, portato via temporaneamente dalla madre. L'avvocato di famiglia dice: questo è un provvedimento discriminatorio. Eccoci allora insieme di nuovo per cominciare a approfondire gli argomenti. Dice per esempio un ascoltatore: Luca, cara, Renzi è trasparente, se ne fa un baffo, e se il suo PC è controllato sono altri preoccupati. Vabbè, tra poco sapremo che sono molti. E poi invece sulla vicenda di Poletti, un ascoltatore che scrive: si emigra per l'Italia, si emigra dall'Italia perché non offre lavoro, solo lavoro con stipendi da fame e pensioni misere da 600 euro. Continuate con i vostri messaggi, i vostri commenti alla pagina Facebook di Effetto Notte, al 349-238-6666. Ora parliamo quindi di questa storia di cyber spionaggio, quindi spionaggio telematico, che potrebbe avere davvero dei risvolti decisamente inquietanti. La Polizia Postale ha smantellato una centrale che da anni raccoglieva notizie e dati sensibili su banchieri, manager, economisti, politici, tra cui abbiamo detto Renzi e Monti, e ha scoperto questo database con oltre 18.000 username e password. Questa centrale dello spionaggio telematico fa capo a due fratelli, un fratello e una sorella, che sono stati arrestati, Giulio e Francesca Occhionero, residenti a Londra ma domiciliati a Roma, che sono una coppia molto conosciuta negli ambienti dell'alta finanza. Entrambi hanno un alto profilo professionale e pare che vi siano dei legami con la massoneria, con un personaggio molto discusso come Luigi Bisignani. Ma ne parliamo con Fiorenza Sarzanini, che saluto. Buonasera Fiorenza. Ciao, buonasera. Che io definisco sempre punta di diamante della cronaca del Corriere della Sera, dove ci sono queste inchieste tremende, c'è sempre lei Fiorenza. Allora ci racconti più nel dettaglio questa vicenda? Sì, più nel dettaglio c'è questa ormai consapevolezza che gli archivi privati, la casella di posta elettronica o nel caso di Renzi tutto quello che era nel suo telefonino, perché l'accesso era appunto con il suo account privato, è stato copiato e archiviato da questi due fratelli e probabilmente da loro complici, perché diciamo che sembra impossibile che abbiano potuto fare tutto da soli, che mettevano tutta questa mole enorme di informazioni riservate in alcuni server in Italia e negli Stati Uniti. E già questo dà la sensazione di quale possa essere poi la ramificazione di questa vicenda, la rete che può esserci dietro questi due fratelli. Quindi parrebbe una cosa decisamente più ampia. È vero che risulterebbe questo collegamento con la massoneria, quindi con... Ma lui è un massone dichiarato, si vanta di questo, aveva un archivio dedicato ai suoi, diciamo, agli affiliati alla sua stessa loggia e si capisce anche dalle intercettazioni che archiviava tutta la documentazione per cercare di prevalere sugli altri, per screditare, diciamo, i suoi avversari in questa scalata della massoneria del Grande Oriente. Quindi sicuramente è un personaggio che si muove in ambienti segreti, si muove con un sistema di hackeraggio molto molto sofisticato. Qualcuno dice che si tratta di un sistema di hackeraggio addirittura più possente di quello dei servizi segreti, quindi per quanto lui possa essere abile sembra difficile che abbia potuto fare tutto da solo. Infatti poi ne parleremo con un esperto di sicurezza, Fiorenza. Tra l'altro un vostro competitor, insomma l'Espresso, vedevo che pubblicava un'anticipazione sul fatto che potrebbero essere collegati anche a Buzzi, addirittura indagato in Mafia Capitale. Ma lì il collegamento è societario, risale al 2006. A me la cosa più inquietante che mi sembra è il fatto che queste due persone siano riuscite a entrare in siti istituzionali, in profili privati senza che nessuno se ne accorgesse, e l'hanno fatto negli ultimi anni, non negli ultimi giorni. Quindi è un sistema di intrusione molto sofisticato che ha, come dice lo stesso giudice, ha la capacità di mettere a rischio la sicurezza nazionale, perché se tu riesci a carpire le informazioni riservate delle cariche istituzionali, dei ministri, del Presidente del Consiglio, dei vertici Banca Italia, evidentemente hai un potere di controllo che va ben oltre quello di Buzzi, secondo me. Un potere di controllo enorme, e dall'altra noi un sistema di sicurezza a livello di Stato che è un po' un groviere, evidentemente. Cioè, no? Ma sai, è successo che anche la Merkel è stata spiata, certo. Accade sempre, abbiamo visto che cosa è accaduto per quanto riguarda la campagna elettorale degli Stati Uniti, però appunto è difficile che un ingegnere nucleare, per quanto bravissimo, faccia tutto da solo. Si tratta di un sistema che a mio parere necessita di un'organizzazione. Hai detto bene, lui è un ingegnere nucleare, lei una manager, è stata di diverse società, appassionata di running, anche una maratoneta. Insomma, questi i profili che emergono per il momento, ma sembra appunto una storia molto più ampia di quello che appare inizialmente. Intanto però so che devi chiudere il tuo pezzo, Fiorenza Sarzanini, sì, al Corriere, quindi ti auguro buon lavoro, a presto. Grazie, grazie a voi. Ciao Fiorenza. Quindi quello che ci si chiede a questo punto è come hanno fatto queste due persone a creare questa fitta rete di attacchi informatici, a spiare appunto politici, amministrazioni, istituzioni, a che tipo di informazioni erano interessati, con quale obiettivo, chi c'è dietro di loro. Lo vorrei chiedere ad Andrea Zapparoli Manzoni, esperto di sicurezza informatica e membro del CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Zapparoli Manzoni, buonasera. Buonasera, buonasera. Lei, tra l'altro, leggevo oggi, fa un'ipotesi davvero inquietante, che per essere così potenti e penetranti evidentemente hanno potuto acquistare un software potentissimo, detto così in parole semplici, paragonabile al poter comprare un'arma nucleare su un mercato internazionale, dico bene? Ma allora guardi, questa vicenda ha ancora dei contorni che dovranno essere chiariti, perché praticamente le informazioni di dominio pubblico al momento sono frammentarie e per alcuni aspetti un po' sconfiggenti, è un po'. Zapparoli, mi perdoni, sì. non credo che ci siano degli hacker nel telefono, ma la sento male. Forse proviamo, si deve. Proviamo così, ho avvicinato. Perfetto, perfetto. Grazie. Allora, dicevo, le notizie a questo punto sono un po' ancora vaghe e si dovranno sicuramente approfondire. Tra l'altro, domani si terranno interrogatori di garanzia, quindi possiamo ipotizzare che emergeranno in altre informazioni nei prossimi giorni. Con le informazioni che abbiamo oggi, possiamo dire che un malware, anzi meglio, una piattaforma dedicata allo spionaggio, che include anche una componente di malware, ma che in realtà è un'infrastruttura molto più complessa. Cioè di mail malevole, malware. Un malware è un software malevolo, malware è un'abbreviazione di malicious, e quindi dannoso, e software, no? Quindi un software con finalità malevole, malware, che è quello che consentiva di controllare da remoto le macchine delle vittime. Questo è solo un pezzo dell'infrastruttura che è più complessa, che si richiede per mettere in piedi e gestire per anni, senza essere scoperti, un'operazione di queste dimensioni verso obiettivi di questa importanza. Allora, un'infrastruttura di questo genere, tipicamente, almeno questo in base a quanto abbiamo osservato in questi ultimi anni, è nella disponibilità di stati nazionali, perché richiede un livello di investimento, richiede un livello di competenze, un continuo aggiornamento dei costi, e tra l'altro un livello, diciamo, paramilitare, anche di segretezza nel portare avanti l'operazione. Quindi sembra improbabile allo stato attuale che due soggetti che non fanno parte dell'underground cybercriminale, che non sono degli hacker, abbiano avuto questo tipo di capacità. Sembra piuttosto improbabile. Chiaramente scopriremo di più nelle prossime ore. L'ho persa un po', Zapparoli, l'ho persa. C'è sempre? Sì, ci sono. Ah, ci sono. No, dunque, questa scoperta dalla polizia è stata fatta per una mail che era arrivata a un funzionario dell'ENAV, l'Ente Nazionale per l'Aviazione. Sì. E anche questo è inquietante, perché potrebbe riguardare, che ne so, anche la sicurezza dei voli. Non so. Ma se guardi, in qualche modo. Sì, senz'altro. Però se noi parliamo di intelligence realizzata per vie cibernetiche, in questo caso, sempre di intelligence stiamo parlando, i soggetti che sono attenzionati dall'elenco che è emerso fino ad oggi sono così numerosi anche per la necessità di chi fa intelligence di incrociare le fonti. Quindi io voglio tenere d'occhio una serie di trend, dovrò inserire punti di ascolto in più luoghi possibili, in modo da poter fare il match delle informazioni che sto raccogliendo da vari punti di vista. Quindi no, sicuramente è male che un'infrastruttura critica come l'ENAV sia stata oggetto di un attacco di questo genere, però dobbiamo dire, si deve sapere, e noi lo diciamo da anni, probabilmente non abbastanza chiaramente, che qualsiasi infrastruttura critica o organizzazione di una certa importanza oggi è quotidianamente soggetta ad attacchi informatici. Quindi che l'ENAV sia stata attaccata non stupisce. In realtà poi Francesco Di Maio, che è responsabile della sicurezza dell'ENAV, ha fatto un ottimo lavoro nel insospettirsi e segnalare questa mail alla polizia postale, al CNAIPI. E con questo ha consentito l'attivazione di tutta un'indagine che poi in retrospettiva ha scoperto molto di più, no? Però tra l'altro questo significa che quando qualcuno presta attenzione si può fare cyber security, perché l'intervento di Di Maio ha smantellato, o comunque ha contribuito a attivare il processo che poi ha smantellato questa operazione che andava avanti da anni. Questo è sicuramente un aspetto positivo che va sottolineato. Anche se bisogna dire, Zapparoli Manzoni, che Evidentemente, anche se, come diceva prima Fiorenza Sarzanini del Corriere, un po' tutti possono essere attaccati, subire questi attacchi informatici, anche la Merkel, però la sicurezza nostra, nel nostro paese, si può dire che sia adeguata, inadeguata a questo punto? Ma guarda, qua ci sono due aspetti importanti. Io spero, dato il poco tempo, di riuscire a essere sufficientemente chiaro su questo punto. Noi abbiamo, come Italia, sicuramente un ritardo rispetto ad altre nazioni, che è principalmente di tipo culturale, non è un ritardo tecnologico, è un ritardo culturale. Noi come paese tendiamo a non occuparci di sicurezza informatica, in generale tendiamo a sottovalutare tutto quello che ha a che fare con la gestione dei rischi, noi tendiamo a reagire dopo i fatti piuttosto che a prevenirli, come proprio background culturale latino-italico. Nel caso specifico della cyber security c'è un problema ulteriore, che la maggior parte degli utenti, soprattutto gli utenti VIP, quelli più importanti, quelli anche di solito anagraficamente più senior, non hanno la più pallida idea di cosa stanno facendo quando usano le tecnologie, ma le vogliono e le devono usare. Quindi sono il bersaglio ideale, perché sono degli utenti che detengono e fanno circolare informazioni importantissime con strumenti che non comprendono e un atteggiamento di solito orientato alla praticità, all'uso del mezzo, ma non certo alla sicurezza. Quindi, siccome questi attacchi venivano veicolati con del phishing, e il phishing è una mail forgiata in modo da imbrogliare il destinatario, le vittime ci cadevano, perché un attacco di phishing è un attacco di ingegneria sociale, è un attacco psicologico. No? Se la vittima non fa click sul link contenuto nella mail malevola, non succede niente. Quindi meglio anche da privati cittadini evitare, quando arrivano delle mail con un oggetto non molto chiaro, non aprire il link che inviano. Per chiudere, Zapparoli Manzoni, quindi secondo lei c'è, ritornando a quello che c'è dietro, possibile che ci sia uno sponsor anche internazionale? Poi, per esperienza rispetto a casi analoghi, cioè per parlarci chiaro, questa campagna è più complessa, lo anticipava prima e lo ha velocemente fatto capire la Sarzanini, sì. Questa attività, per come sta emergendo, è più complessa di quella che si sta attribuendo alla Russia nell'ambito delle interferenze vero presunte delle elezioni di Trump, delle elezioni addirittura, americane. Addirittura più complesso. Sì, perché un attacco di questo genere su un numero di soggetti così grande, per anni di fila, senza mai essere scoperti, richiede un livello di sofisticazione che è superiore all'attacco fatto in poco tempo e verso pochi soggetti negli Stati Uniti. Cioè, è molto più complicato, nel senso ordini di grandezza, di complessità in più, perché statisticamente è improbabilissimo non farsi scoprire. Quindi se ci sono riusciti in questi anni, 4 anni, significa che erano veramente bravi. Ora, di alto visto livello. Che i soggetti non sembrano così, personalmente, per il loro background, capaci, questo fa supporre per buon senso che dietro ci fosse un'organizzazione, e competenze adeguate. Beh, chiarissimo. Capiremo e seguiremo gli sviluppi. Grazie ad Andrea Zapparoli Manzoni. Grazie molte. A voi. Grazie, buona serata. Adesso ci fermiamo brevemente, come sempre, una piccola pausa ai vostri messaggi. Dice questo ascoltatore: vi pare che non vi siano di mezzo i servizi segreti in queste storie, che la polizia postale non abbia gli strumenti di controllo, sanno tutto di tutto, insomma, per ora però questi sono i fatti. E poi ringrazio qualche ascoltatore che è contento del ritorno di Effetto Notte, siamo alla seconda puntata del 2017, e poi qualcuno che di nuovo ritorna su Poletti e altri sul Movimento 5 Stelle. Adesso però ci dobbiamo lasciare per trovare poi tempo per i prossimi temi, a tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Continuiamo quindi con i temi, abbiamo parlato lungamente di questa scoperta della polizia postale di un'ampia rete, probabilmente a livello internazionale, di cyberspionaggio, di spionaggio nei confronti di amministrazioni, di istituzioni, di politici a livello nazionale e internazionale. Ne abbiamo parlato come descrivendo un po', raccontando quelli che sono i fatti per il momento, e poi con un esperto di sicurezza informatica che ci diceva che evidentemente hanno utilizzato, per poter andare avanti degli anni senza essere scoperti, un software così sofisticato che probabilmente è stato comprato sul mercato internazionale ad altissimi livelli, così come si può comprare un'arma nucleare. E seguiremo poi nei prossimi giorni gli sviluppi. Adesso cambiamo tema, tra poco parleremo di un arresto per terrorismo in Italia che ci riporta poi a un argomento molto delicato, che è quella del il rischio di radicalizzazione nelle carceri italiane. Intanto però, se non avete acceso puntualmente, vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata. Cyberspionaggio, appunto. Fratello e sorella arrestati a Roma, avevano creato una centrale che spiava da anni politici e istituzioni, avrebbero legami con la massoneria, e con Buzzi imputato in mafia capitale. Terrorismo a Roma, un tunisino faceva proseliti tra i carcerati, sarebbe legato a una branca dell'ISIS, ne parleremo a breve. Vertice italo-francese, Hollande e Gentiloni rilanciano l'Unione Europea, dicono le priorità sono crescita e lavoro. Le banche, via libera alla commissione d'inchiesta, anche il PD è favorevole. Movimento 5 Stelle, dopo il tentativo fallito di passare con l'ALDE, Grillo fa retromarcia e torna con l'UKIP di Farage, risolte tutte le divergenze. Stati Uniti, stanotte il discorso di commiato del presidente Barack Obama. I malati curati a terra a Nola. Su questa vicenda interviene anche il ministro Lorenzin, che difende i medici, dice sono eroi, e attacca sul malfunzionamento regionale. Minori, un tredicenne considerato troppo effeminato viene allontanato dalla madre. L'avvocato di famiglia commenta un provvedimento discriminatorio, ma i giudici negano che vi sia stata discriminazione. Duplice omicidio nel Ferrarese, marito e moglie trovati uccisi in casa. A scoprire i cadaveri sarebbe stato il figlio sedicenne. Dai primi accertamenti sui corpi risultano segni di aggressione. E per il calcio, la FIFA verso il nuovo mondiale dal 2026 sarà 48 squadre. Vi aggiorno anche sulla Coppa Italia, Napoli-La Spezia 1-1. E ora occupiamoci dell'arresto da parte di investigatori della Digos di un presunto terrorista, un tunisino di 34 anni, Mid Saber, un leader di primo livello del gruppo Pare Ansar al-Sharia, un punto di riferimento che molti tunisini e siriani contattavano, che però in realtà era già in carcere, come ci racconta la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Sì, era già in carcere per altre vicende, per altri reati. Diciamo che è uno di quegli di quelle persone, di quegli stranieri che in realtà è stato fin da subito, fin dal suo arrivo in Italia nel 2008, abbastanza subito avuto a che fare con la giustizia italiana per questioni di spaccio, di droga, di rapine. Poi in un blocco stradale aveva tirato fuori anche una pistola, In un blocco stradale aveva tirato fuori la pistola, appunto, poi era finito in carcere. Conosciuto come un violento, un criminale, ma nulla che avesse a che fare con il terrorismo, anche se appunto già nel precedente arresto a casa sua avevano trovato una bandiera nera appunto di Ansar al-Sharia. All'interno appunto poi delle carceri vengono i personaggi che vengono considerati più a rischio, vengono seguiti molto da vicino dall'amministrazione penitenziaria, proprio per poter percepire in tempo anche il processo di radicalizzazione. Ecco, questa persona in realtà avrebbe fatto di più, nel senso che oltre ad essersi radicalizzato lui stesso ed essere pronto anche nel momento in cui fosse uscito dal carcere a partire per la Siria per andare a combattere per il califfato, come lui stesso confidava a compagni di cella, aveva tentato operazioni di proselitismo con altri detenuti in quelle che definiva ora di preghiera, in realtà appunto momenti di proselitismo, ma all'interno delle carceri aveva organizzato anche delle azioni punitive, delle azioni di violenza contro altri detenuti di altro credo religioso, quindi anche era passato anche di una fase più violenta oltre che a quella di appunto di proselitismo e di radicalizzazione. Questa vicenda ci può dire due cose sostanzialmente: conferma il rischio, diciamo, che all'interno delle carceri, come nel mondo del web, avvenga la maggior parte della radicalizzazione popolazione, quindi si formino anche quelli che possono essere aspiranti jihadisti, attingendo nelle ampie sacche di persone che sono anche soltanto invece criminali semplici, che poi a contatto con persone carismatiche o imam o pseudotali, insomma, che diventano tali all'interno delle carceri, entrano nel circuito della radicalizzazione. Ma dall'altra parte però la buona notizia è questo arresto ci conferma anche come questo monitoraggio funzioni. E infatti, Raffaella, tu hai fatto anche un'intervista, no, in proposito, perché sono almeno 373 al momento i detenuti che vengono controllati, no? Sì, questa è la cifra ultima data dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a vario grado chiaramente, quelli che sono in modo più blando a quelli che invece hanno già avuto casomai una condanna anche per terrorismo islamico, che sono quanti hanno anche già avuto, come questo tunisino, delle espressioni di esultanza dopo gli ultimi attentati gravi a Parigi. E ho sentito Lorenzo Vidino, il professor Vidino, che presiede questa commissione di studio sul rischio di jihadismo in Italia, che ha presentato pochi giorni fa il suo primo rapporto a Palazzo Chigi. Sentiamolo. La dinamica che spesso succede è che soggetti di fede musulmana che entrano in prigione per crimini comuni adottano l'ideologia jihadista in prigione perché ha contatto con personaggi già radicalizzati. Esiste poi un problema di accesso di imam riconosciuti, d'alternativa agli imam improvvisati. E all'interno di queste realtà ci sono anche quanti hanno ad esempio avuto manifestazioni di esultanza dopo gli attentati di Parigi? Dopo vari attentati che soggetti risultavano. Ci sono una serie di indicatori che le autorità usano per capire quando ci sono degli inizi di percorsi di radicalizzazione. È però chiaro che il personale è limitato, la popolazione carceraria di fede musulmana costituisce una fetta importante, attorno al 30%. Quello che poi abbiamo voluto sottolineare è di come la prigione possa anche essere un luogo di deradicalizzazione. Questa è l'anticipazione di intervista che poi ci sarà di Raffaella Calandra a Storiacce sabato alle 21.30. Esatto. Raffaella. Bene, direi che possiamo quindi salutarci a questo punto. Grazie, ciao, Raffaella, ciao, Calandra. Roberta. Ciao Raffaella. C'è la viabilità, la partita Napoli-Spezia, la Spezia prosegue sempre 1-1, poi ci sarà lo spazio europeo e poi torneremo sul calcio anche per raccontare di questa novità per quanto riguarda i mondiali, quelli dal 2026, e anche una cosa particolare per il possibile spostamento della Coppa Italia, dei quarti finali, delle finali in altri stati. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Prendiamo sempre Roberta Giordano con voi, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, numero per messaggi e WhatsApp. E c'è, a proposito, diversi movimenti sul Movimento 5 Stelle che è tornato con Farage. Andrea però dice come i media riescono a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica su sciocchezze mentre il governo regala 20 miliardi ai cittadini a una banca che a sua volta le ha regalate ai suoi amici, parla di MPS. Poi Giorgio dice pentastellati hanno dovuto fare marcia indietro solo perché l'Alde non se li è presi, c'è un po' di ironia. Carmela dice indietro tutta, Raffaele scrive decide la rete. Allora, tra pochissimo lo spazio europeo, vi ricordo molto velocemente le notizie più importanti. Abbiamo parlato a lungo di questa operazione anti-cyberspionaggio, in manette due cyberspioni hacker praticamente entrati anche nella mail di Renzi, controllavano anche Draghi, Monti da anni, hanno legami pare con la P4 e con il discusso personaggio Luigi Bisignani. Poi il Movimento 5 Stelle che torna appunto con l'euroscettico Farage a livello europeo, ma lui pone delle condizioni, dice chi tradisce paga, l'ira della base del movimento. Poi c'è il via libera della Camera alla commissione d'inchiesta sulle banche. A proposito di banche, il 31 gennaio si discuterà, ci sarà l'esame del disegno di legge, il PD dice bisogna accertare le responsabilità. E poi oggi c'è stato il vertice francese e italiano tra Hollande e Gentiloni che rilanciano l'Unione Europea e dicono la priorità è la crescita e il lavoro. Per quanto riguarda l'immigrazione, l'Unione Europea spinge sui rimpatri dei migranti, è partito al via un team di guardie speciali di Frontex, intanto riapre a Tripoli l'ambasciata italiana. Poletti al Senato, il ministro del Lavoro, che ha ribadito le sue scuse per le parole sui giovani dette il 19 dicembre, all'estero attesa intanto la decisione della consulta sul referendum relativo al Jobs Act. E tra poco parleremo di calcio, però prima lo spazio europeo con questo concorso promosso dal Ministero dell'Istruzione per gli studenti a proposito dei 60 anni della Comunità Europea. Europa 24 notte. Si chiama Welcome Europe, speranze e idee per l'unione del futuro ed è un concorso promosso dal Ministero dell'Istruzione rivolto agli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma. I ragazzi sono chiamati ad esprimere la loro visione di Europa attraverso un video lungo massimo 3 minuti o attraverso un album fotografico composto da 3 immagini con didascalie. Giuseppe Pierro, della Direzione Generale per lo Studente del MIUR. Vogliamo che gli studenti possano raccontarci qual è l'Europa che loro vedono, quindi non solo l'Europa che loro stanno vivendo, ma anche l'Europa che loro vorrebbero. Ed è un'iniziativa che facciamo insieme al Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione dell'anniversario dei Trattati di Roma. Gli chiediamo di raccontare alla loro maniera in 3 minuti con un video oppure in un album fotografico attraverso 3 immagini qual è l'immagine che loro hanno dell'Europa che vivono e che vorranno, per loro che sono nativi europei, se possiamo usare questo termine. Loro che sono nativi europei, spesso anche un po' troppo lontani dalle istituzioni europee, dalla realtà europea. Esatto, questa è una delle iniziative che facciamo per avvicinare sempre di più i giovani, e quindi i giovani studenti in questo caso, alle istituzioni e alle istituzioni europee, proprio per promuovere sempre di più un'idea di cittadinanza europea anche per i più giovani. Avete già ricevuto degli elaborati? Sì, stanno arrivando già i primi elaborati, come sempre accade alle scuole, e gli studenti in queste situazioni ci stupiscono con una capacità incredibile di saper proporre idee innovative per il futuro, quindi sono sicuro che vedremo degli elaborati sicuramente estremamente interessanti. Vogliamo che siano un po' tutti considerati vincitori, perché anche le idee di coloro che magari non saranno selezionati nella fase finale assicureremo a tutti la possibilità di poterla conoscere attraverso i siti, attraverso il sito del Ministero dell'Istruzione, ma anche attraverso il sito del Dipartimento per le Politiche Europee. Possono partecipare anche classi? Cioè intere classi, no? Sì, sì, sì. Si cerca come sempre di promuovere un lavoro quanto più condiviso possibile. Vogliamo che questi elaborati siano in realtà il frutto di un percorso educativo che gli insegnanti faranno all'interno delle loro scuole con le proprie classi. Quindi in qualche modo sicuramente uno spazio per lasciare spazio alla creatività degli studenti, ma anche in qualche modo vogliamo che sia un lavoro di approfondimento di queste tematiche all'interno delle scuole e delle classi. L'obiettivo è sicuramente fare in modo che le idee dei ragazzi possano avere uno spazio di visibilità e anche in occasione delle cerimonie di celebrazione dei trattati possano essere un documento nelle mani di chi sta pensando, di tutti coloro che comunque poi stanno ripensando a come ricostruire un'idea di cittadinanza europea vista dai giovani. Cioè vogliamo dare all'opinione pubblica dei documenti che rappresentino come i ragazzi vedono l'Europa. In questo momento credo che sia importantissimo capire come loro che la vivono e la vivranno si immaginano l'Europa del domani. Ecco, ma cosa si vince? Allora, sicuramente i vincitori saranno invitati a partecipare alla manifestazione finale, quindi un evento finale che sarà organizzato, e quindi saranno invitati a partecipare all'evento e a esporre i loro lavori. Per partecipare al concorso Welcome Europe c'è tempo sino al 17 febbraio. Tutte le informazioni al sito del Dipartimento per le Politiche Europee www.politicheeuropee.it e sulla piattaforma digitale Europa Noi www.educazionedigitale.it/Europa Noi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ringrazio Lorenzo, ringrazio gli ascoltatori, vari messaggi che stanno arrivando molto carini alla seconda puntata del 2017. Poi dice un ascoltatore, insomma, avete parlato di queste persone senza ripetere chi sono. A proposito del cyberspionaggio, bisogna accendere puntualmente, comunque l'abbiamo detto, sono fratello e sorella Giulio e Francesca Occhionero, lui ingegnere nucleare e lei manager di varie società, è stata poi appassionata di maratone. A proposito di sport, parliamo con Dario Ricci. Eccoci qua. Eccolo qui. Buonasera. Dario, molto sportivo, stiamo vedendo Napoli, La Spezia in Coppa Italia 1-1, sì, Coppa Italia che ogni tanto riserva delle sorprese. Il Napoli che sta facendo anche un po' di turnover, che è passato in vantaggio comunque al terzo minuto con Zielinski, ricordo che si gioca al San Paolo, partita che sembrava già chiusa, però al 35esimo è arrivato l'autogol di Albiol su iniziativa dello spezzino piccolo, e quindi 1-1, insomma bisogna vedere anche il secondo tempo, vediamo già un po' che succede. Nel frattempo, mentre vediamo il secondo tempo, invece andiamo a livelli ancora più alti di calcio mondiale internazionale, la FIFA ha deciso di allargare il numero di squadre che giocheranno al mondiale nel 2026? Sì, a partire dall'edizione del 2026 è stata l'affermazione, la dichiarazione oggi del presidente presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha di fatto esplicitato la decisione del Consiglio FIFA, saranno 48 le finaliste. Finora e fino all'edizione di Qatar 2022 resteranno 32 e poi questo upgrade, questo mondiale extra large che da un lato, entriamo già nella fase del commento, appaga la sede di partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo, soprattutto che arriva da Asia e Nord America. E però mi pare che le leghe europee non sono molto d'accordo. Le leghe dei club europei non sono molto contente perché in questo momento vedono un calendario ancora più zeppo di eventi, anche se in realtà la durata del torneo dovrebbe rimanere intorno ai 32 giorni, quindi concentrata su per giù nello stesso periodo attuale. Però mi pareva è chiaro di aver letto qualcosa di contrario da parte di Zoffa, che ha detto sono solo questioni economiche. Sì, Zoffa l'abbiamo anche intervistato, lo sentiremo poi nel GR delle 23. Sicuramente è una decisione anche alla luce di quello che è un po' il calcio business. Pensa solo che rispetto ai guadagni preventivati per Russia 2018, un mondiale che a quel punto con 48 squadre prevederebbe 80 partite invece di 64, garantirebbe, secondo le stime, più di 600 milioni di euro in più appunto di guadagno. Ma in realtà c'è proprio una modifica genetica del calcio mondiale che guarda sempre di più ai mercati asiatici e anche ai mercati nordamericani, quelli che finora sono stati un po' più refrattari a formule magari complesse e anche al pareggio, no? Che è un po' estraneo a quelle culture, che invece a noi europei fa parecchia libidine, perché c'è la tensione, il tatticismo. Insomma, è un calcio che cambia e noi abbiamo la fortuna di poterlo raccontare proprio anche in questo momento. Grazie a Dario Ricci che ci racconta sempre dello sport in evoluzione. Noi ci riaggiorniamo come sempre brevemente alle 22.